giorno a far l'amore. Oh, ma Sara, mi devo laureare, ma forse un giorno ti sposerò, magari in chiesa, dove tua madre sta aspettando per poter piangere un po'. Ci credi, nascerai.